Allora, cominciare bene credevo, ma così no, ho subito intercettato in Pinacoteca a Bologna il donatore di queste opere, che è protagonista della nostra conversazione. Allora ci presentiamo, siamo con Alessandro Zacchi, che ha avuto la possibilità di portare veramente dei tesori all'interno di una Pinacoteca già di per sé molto importante. Come è arrivato ad avere questi capolavori? Siamo partiti intorno agli anni 94-95, così per scherzo, acquistando un disegno di Alessandro Guardassoni per pochissimo. Poi pian piano mi è capitato di trovare altri disegni. Man mano che pubblicavo opere sui disegni, venivano richiesti degli expertise o delle consulenze. Invece di farmi pagare in denaro, mi facevo pagare in disegni. Così sono andato avanti mettendo insieme un piccolo nucleo. Poi, in un viaggio con amici a Lione, entrando in una galleria, ho scoperto un disegno che poi abbiamo attribuito a Ludovico Carracci. L'ho acquistato perché lì era come anonimo e lì ho cominciato a raccogliere anche cose più antiche. Io insegno fra l'altro da anni alla Primo Levi e ho avuto la fortuna di incontrare dei miei studenti adulti che avevano dei disegni che volevano vendere. E così sono entrato in contatto con loro, collezioni molto corpose, sono riuscito a fare guadagnare ai venditori delle buone cifre, però ho tenuto per me, per la mia collezione, che poi avevo già pensato fin dall'inizio che era una collezione non mia ma da donare alla città, anche perché conoscendo bene il gabinetto dei disegni e delle stampe sapevo quali erano le lacune da colmare e ho fatto il possibile per mettere insieme questa collezione, che non è ancora tutta arrivata, ne ho ancora, ci sarà una seconda donazione in seguito. Quante opere sono in questo primo segmento? In questo primo segmento sono 179 disegni e 21 incisioni. Ci sono dei nomi molto importanti. Si va dalla fine del 400 con un disegno umbro di anonimo ad una rara copia di un disegno di Raffaello, poi Passerotti, Ludovico Carracci, Pietro Faccini, Bartolomeo Cesi, Domenichino, Guercino, i grandi disegnatori bolognesi e non solo bolognesi del 600 e del 700, Crespi, Donato Creti, fino ad arrivare all'800 con un buon nucleo di opere di Guardassoni, di Faccioli, che mancava assolutamente in Pinacoteca, un raro disegno di Luigi Bertelli, fino al 900 con Ugo Valeri, fino a Cervellati, arrivo fino agli anni 70. Sì, insomma. Quindi un bel percorso. Sì, un percorso e ce n'è tanto brutale. Bisogno, oltre che per i contenuti artistici e culturali, anche perché è un momento difficile. Vedo che siamo uniti anche con i nostri progetti che sono ReArt, attraverso l'arte contro la guerra, grazie agli artisti e a direttori artistici, appassionati di arte, musicisti, attori, insomma quello che può essere essere attraverso l'arte e la cultura contro la guerra e contro il genocidio che sta avendo luogo. Come ai vede, danni. Ho le spillette. Vorrei ricordare anche stasera il disgusto che ho per la situazione che stiamo vivendo. Io non me ne faccio una ragione, per me è una barbarie incredibile. Alla quale abbiamo detto mai più, e invece il ventre del mostro è gravido. È gravido, purtroppo sì. Io intanto la ringrazio per questa sua passione, donazione, la disponibilità che l'ha avuto per la conversazione con Radio Città Fujiko e le auguro un buon proseguimento. Grazie, altrettanto.